E ora possiamo partire. Gigi, sei pronto? Sì, sì. Al tuo ok partiamo. Io sono qua apposta. Buon pomeriggio. Lunedì 22 gennaio 2007. 7 7 7 7. E comincia il cammino di Gigi D'Agostino, scalciando qualche pietra. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino, non ferma i suoi passi. Non ferma i suoi passi. Non ferma i suoi passi. Forte sentimento, sesso, amore, dolce e violento. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino, non fermi sui passi. Cammino di Gigi D'Agostino. Come ascolti. Secondo gli psicologi, conoscere la musica migliora lo sviluppo del linguaggio e fa crescere il quoziente intellettivo. Pare infatti che ascoltare brani musicali e ancora di più imparare a suonare uno strumento affini le capacità intellettive e di linguaggio. Parola e musica si incontrano entrambe nell'area del cervello detta di Broca, il cui ruolo principale è quello di permetterci di elaborare un discorso. Oh, ma quindi se io ascolto tanta musica poi parlo meglio? Certo. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica vendetta. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza.

Segui i passi del cammino. Lui è Gigi da Agostino. Allontana tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno. Voltaire. Bene che... Però... Dai. Gigi D'Agostino. Una musica infinita che racconta la vita. Più errate sono quelle che pensiamo di conoscere meglio e quindi delle quali non sindacchiamo e di cui non ci poniamo più degli interrogativi. Stephen J. Gould. La soluzione motore certamente può tirare. La mia fantasia è un po' danneggiata, da troppo tempo parcheggiata. E poi cambiare casa, come cambiano le cose, è così. Sabato 27 gennaio 2007 Gigi D'Agostino suona a Roma. Discoteca Palladium, Trevignano Romano. Trevignano Romano. Sulle mani. Gigi, sono Franco. Allora, tutto a posto? Allora, tutto confermato. Sabato sera, discoteca Palladium. Sì, sì, ho capito. Perfetto, Gigi. Ci vediamo lì. Ciao. Aggi, appiccia un po' e andiamo, dai. Johnny Depp,

dal ritmo più duro a quello più dolce, io mi farò trasportare, perché quello che conta non è diventare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino, che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirige Gigi D'Agostino. Giusto Agustin, mica non fulé. Vorrei cantarmi inna d'erbe. Oh la puta. No, volevo dirlo. Este programa musical mental, olé, me gusta mucho más. Que cacho. C'è Gigi D'Agostino e tutta un'altra musica. È vero, è vero. Vuoi giorni grigi? Scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Robetta amatoriale. Stai ascoltando il cammino di Gigi D'Agostino. Mica una cosa a caso. Yeah. musical mental. Musical mental. Gigi D'Agostino. Musical mental. Un DJ con le pal. Ascolto la musica del mio DJ su M2O ogni pomeriggio alle 6. Fammi una mixata, va. Per piacere, prestiamo attenzione perché sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Gigi, Gigi, Gigi, a volte incazzato, ma mai meschino, ti puoi fidare. E Gigi Quando camminiamo fino al limite di tutta la luce che abbiamo e facciamo un passo nell'oscurità del non conosciuto, dobbiamo credere che accada una di queste due cose. O ci sarà qualcosa di solido in cui mettere il piede, o ci verrà insegnato a volare. Patrick Overton. solo dentro me, una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto un mondo sempre con te, credo in quel che ho trovato ed è quello che vedo solo in te. Sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se non credi in questa storia, domandati perché. Ricerca nella memoria quello che fu di te. Non sono nella natura, ma esistono in noi. In noi esseri umani con i quali il caso si diverte. Ma possiamo essere più forti del caso e della natura, anche se solo per pochi istanti. Possiamo essere vicini l'uno all'altro, quando ce n'è bisogno, e guardarci negli occhi con comprensione. Possiamo amarci e vivere confrontandoci a vicenda. Tratto da uno scritto di Hermann Hesse. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Fai l'annuncio, lavora. Questo sabato 27 gennaio 2007 Gigi D'Agostino suona a Roma, discoteca Palladium, Trevignano Romano. Su le mani. Yeah!

D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Oh, questo è spettacolare, mette i brividi. La serenità e ascoltare tra le piante e i cespugli la voce del vento e sentirsi parte dell'universo. Il cammino di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. Cammino di Gigi D'Agostino. Per oggi è quasi arrivato al termine. Grazie per aver scelto questo mondo, che esplora altri mondi e che crea un suo mondo fuori dal mondo. A volte non mi capisco quando.